c'è, molto lontano, un mondo strano, strano e fantastico. Là non è mai sera, la primavera dura una vita, ma trovarlo non potrò. È finita, c'è il silenzio tra di noi. Sì, qui, qui nel silenzio sto ritrovando l'anima mia per te. Qui, in un momento si asciuga il pianto e tace il vento, ma se il fuoco tra di noi non si è spento, io con te ritornerò.